Noi che abbiamo fatto una rivoluzione che non ha funzionato, assumiamo fumo come latte velenoso. Il nuovo Papa ha fatto piazza pulita anche del limbo, neppure un bimbo non battezzato potrà aspirare più ad una semi-immortalità in questa radura che sospende metalli pesanti, inaliamo residui tossici di diritti civili, si fa per dire, leggo con indicibile piacere in una cara vecchia traduzione di Santa Teresa del valore incomparabile di una mortificazioncella.